con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi devo dire da subito, come ogni tanto succede, è una puntata speciale Non ci sono più le mezze stagioni, non di quindi di quelle dove ogni sabato ci raccontiamo e commentiamo i fatti della settimana, ma è una puntata speciale, quindi monografica, su un tema in particolare. Ora, tra poco lo introdurrò, introdurrò anche gli ospiti che dibatteranno su questo argomento. Diciamo, vi do giusto un piccolo indizio, nel senso che è un'esperienza che più o meno tutti abbiamo vissuto, abbiamo provato nella nostra vita o proveremo, chi in modo un po' più equilibrato, per molti può presentare insomma un dramma, in certi casi un vero e proprio lutto, quindi in realtà è un argomento piuttosto serio che introdurrei in questo modo. Quando finisce un amore così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. In fondo pensi ci sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Insomma, c'è una ragione, non c'è una ragione, è difficile dirlo, adesso cercheremo di capirlo insieme agli ospiti. Parliamo appunto di cuori infranti, che detto così può sembrare un argomento da pagine rosa, come si diceva soprattutto una volta, ma vi assicuro, e penso sarete d'accordo anche voi, può essere un argomento molto molto serio, perché davvero si arriva anche a moltissima sofferenza, in certi casi anche a degli atti estremi sui quali parleremo brevemente, sfioreremo quelli li riteniamo un po' più, speriamo, patologia, insomma. Però, quindi affrontiamo questo argomento, non vi malinconite, è un modo anche un po' per esorcizzarlo, ma anche per comprendere di più, per maturare anche su questo tema. E allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vado a presentarvi gli ospiti di oggi. Gianna Schelotto. Buonasera. Gianna, ti volevo un po' tirare indietro con questa esitazione, perché sei soprattutto tu la responsabile di questa idea che mi è venuta su questa puntata. Gianna Schelotto è psicoterapeuta, psicologa specializzata in terapia della coppia, scrittrice, scrive su molti giornali. Poi parleremo di questo libro da poco pubblicato. C'è Anna Maria Bernardini De Pace. Cara Anna Maria. Buongiorno, buongiorno a Gianna, buongiorno a Roberta, buongiorno a tutti. Bentornata a te, avvocata divorzista, anche lei non ha bisogno naturalmente di presentazione, la matrimonialista più famosa d'Italia. Matrimonialista o divorzista, io non ho mai capito quale delle due preferisci, perché... ma dipende, se una persona è ottimista dice matrimonialista, se è pessimista... Divorzista, va bene, quindi vedete un po' voi dai vostri punti di vista. Poi c'è Elisabetta Fernandez, ciao Elisabetta. Un saluto a tutti. Che è sociologa e sessuologa. E c'è Franco La Cecla, caro Franco. Buonasera. Che è antropologo. Buongiorno. Buonanotte, quello che vuoi, insomma, buon pomeriggio. Antropologo, scrittore, filmmaker. E adesso di ognuno vi dirò anche insomma che cosa combina, ma direi di partire soprattutto dal libro di Gianna Schelotto, che si intitola per l'appunto SOS Cuori Infranti, sottotitolo Guarire il mal d'amore. Insomma, come fosse semplice, no, lei racconta varie storie in questo libro, non è per nulla semplice, sono molte le domande da fare su questo tema, no? Perché finisce un amore? Percocciante dice non c'è mai una ragione perché finisca, forse è anche vero, nel senso che si possono anche addurre delle ragioni, delle spiegazioni, ma poi non sappiamo mai fino in fondo veramente perché ci sono talmente tante variabili. E poi anche bisogna capire come fare a lasciarsi senza farsi troppo male reciprocamente. Quanto dura la sofferenza? Per esempio, Gianna, un amico che fa proprio dei calcoli algebrici, delle equazioni, cose varie, alla fine deduce che secondo lui la sofferenza dura. Allora, se la tua storia, per esempio, è durata 5 anni, devi sottrarne circa la metà, quindi diciamo, soffrirai per 2 anni e mezzo. Che ti sembra a te? Un po' non lo so, bislacca. Perché... di matematica non sono una grande esperta. Neanche io. Sta di fatto che è vero che non ci sono più le mezze stagioni, ma sorprende come continuano ad esserci cuori terribilmente infranti. Quindi quanto dura? Dura molto o molto poco a seconda della personalità individuale, ma anche perché a volte accade questo fenomeno strano per cui ci si affeziona un po' alla sofferenza. Cioè, ci si crogiola, ci no? Esatto. Se ci fermassimo a riflettere seriamente ci accorgeremmo che non ci importa più tanto della persona perduta, delle situazioni che non abbiamo più, però si permane in questo stato perché si è creata questa sorta di affezione al cuore infranto e come dire, in qualche modo si blocca il risanamento del cuore, sia pure senza rendersene conto fino in fondo. Ma voglio chiedere a Elisabetta Fernandez, Elisabetta, da sociologa, si può dire che, almeno riferendoci alla nostra cultura occidentale, non è che adesso possiamo parlare di ogni parte del mondo, diciamo quella in cui noi viviamo, no? In cui siamo immersi, nella nostra cultura è un fenomeno sempre più diffuso. Una volta, ma poi non c'era neanche il divorzio, naturalmente non parliamo solo di coppie sposate, ma anche di coppie di persone che stanno insieme, di qualsiasi sesso, naturalmente, eterosessuali, omosessuali, insomma. Più frequentemente adesso e con più disinvoltura e con più facilità ci si lascia, ci si prende, si incontrano altre persone. Secondo te perché? Diciamo il sogno dell'amore eterno è quasi sfumato. I motivi che causano questo problema sono moltissimi e quindi è multicausale la crisi della coppia. Tra i tanti motivi potrebbe esserci il mutato rapporto tra i sessi. Molti non riescono ad adeguarsi, potremmo aggiungere a questo ritmi di vita frenetici che contribuiscono a limitare lo spazio della dimensione emozionale, quindi a discapito della cultura del sentimento. Il tutto conduce a un poco dialogo, a delle parole vuote, a silenzi assordanti pieni di intraducibilità, quindi una carenza di comunicazione, di voglia di stare insieme, l'aver sostituito la competizione alla collaborazione. Ognuno è coinvolto nei propri impegni. Del resto rispecchiamo un po' questa società nella quale siamo immersi, come dicevi tu, una società che mira alla massimizzazione della crescita economica e contemporaneamente tende a sottovalutare gli spazi emozionali. E quindi è chiaro che questo potrebbe spalancare la via a un mondo di single. E sarebbe molto triste la cosa. Purtroppo molti pensano che l'amore possa essere una complicazione, si vedono davanti la prospettiva di trovarsi a vivere una relazione destinata a stretto giro, a svuotarsi di contenuti, a rimanere addirittura priva di quei presupposti che furono i presupposti iniziali per i quali la relazione andava dispiegando le sue ali. Nessuno vuole vivere in bilico tra insoddisfazione e frustrazione e quindi l'allontanarsi dal rapporto di coppia e il non impegno nel momento in cui si ha un rapporto di coppia fanno un pochino parte di questo modus che abbiamo così a proprio di relazionarci. È un discorso di impostazione di relazione, non solo di coppia. Però mi viene in mente, Elisabetta, tu parli di poca comunicazione, poco dialogo, però se pensiamo alle coppie di una volta non credo che ci fosse una gran comunicazione, no? C'era poi molta asimmetria tra i sessi, molto più di adesso. Gli uomini un po' allora, più c'erano padroni. Meno esigenze, però c'erano meno esigenze, erano minori perché la coppia prima era fondata su elementi diversi, adesso si tende più ognuno alla propria autonomia, non solo economica. E questo è un aspetto positivo. Poi però spesso questa autonomia degenera in una sorta di individualismo. Invece è necessario mantenersi autonomi, mantenere se stessi, la propria individualità, essere se stessi, volersi bene, che è fondamentale perché chi non si ama non può amare, volersi bene e insieme, fusi senza essere confusi, guardare nella stessa direzione. Sì. Un po' di impegno che prima le vecchie coppie avevano di più. Adesso con più facilità, lo confermerà la Bernardini de Pace, con più facilità si arriva ad una rottura. Prima la mediazione era un elemento dominante. Adesso si tende più a enfatizzare ciò che separa rispetto a ciò che unisce. Ecco, dopo glielo chiediamo, Elisabetta. Però prima volevo sentire da Franco La Cecla, che tra l'altro ha scritto Lasciami, ignoranza dei congedi. Poi ci dirai anche un po' quale può essere un galateo, ma ci arriviamo dopo, del lasciarsi. Tu sei d'accordo da antropologo, da uno che quindi ha una visione, diciamo, molto aperta sul mondo, sulle culture diverse? Ma no, perché sento un odore di chiesa tremendo, nel senso che cioè aiuto, mi sembra che appunto, cioè devi dire, io in quanto antropologo so che cioè, quasi tutte le società tranne la nostra sanno perfettamente che gli amori non durano e che molto e che nemmeno le tutte le società, sei proprio sicuro, anche i paesi integralisti? Sì, sì. O pensano che non c'è l'amore dall'inizio? I paesi integralisti hanno previsto il divorzio prima di noi. I paesi islamici hanno il divorzio nel Corano da sempre. Quindi, però il punto è che so, per esempio i Tuareg, che sono un popolo della fascia del Sahel, loro dove sono le donne che scelgono gli uomini, loro celebrano i divorzi e non i matrimoni. Perché appunto comunque tutti lo sanno che gli amori non durano, soltanto noi che siamo vittime della Chiesa e vittime degli americani siamo... Pronto, è stato immediatamente censurato, ma non so se dagli americani stessi con questa storia del Datagate eccetera eccetera. Riprendiamo Franco La Cecla appena possibile, perché è all'estero anche lui. Anna Maria Bernardini De Pace, poi riprendiamo il discorso con Franco La Cecla. Sei d'accordo sulla questione della mediazione, diceva prima Elisabetta Fernandez? È casuale che un uomo, per quanto antropologo, abbia fatto questo discorso degli amori che non durano, perché sono i primi a dare questi segnali della fine di un amore nella coppia, eh? Diciamolo che non è casuale. Allora, sono d'accordo con quello che ha detto prima la sociologa, cioè che oggi prevale nella coppia ciò che separa su ciò che unisce, ed è per questo che in genere si arriva alle separazioni. Io purtroppo vedo solo la fine degli amori, a differenza di tutti gli altri. Vivo ogni giorno raccogliendo le macerie dell'amore e sentendo il dolore più che dell'amore dei matrimoni che finiscono, perché devo dire la verità, i matrimoni finiscono dopo un bel po' di tempo che l'amore è già finito, si tenta di tenerli insieme e non si riesce a tenerli insieme proprio perché si cerca l'amore. È vero che l'amore non dura, tutti siamo grandi, sappiamo che l'amore non dura, però come finisce un amore tutti abbiamo voglia di un altro amore, e la stessa cosa succede nel matrimonio, mentre il matrimonio, senza sentire odore di chiesa, io credo anche il matrimonio civile, ma anche la coppia convivente non sposata, dovrebbe capire che l'amore erotico ha un certo amore erotico, forte, passionale, fatto ha una certa durata. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me, perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Insomma, cerchiamo di tirarci su. Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata monografica, quindi speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, sulla fine degli amori e tutto quello che ne consegue e le riflessioni che possiamo fare su questo tema con gli ospiti che ci sono oggi qui in puntata, che sono la psicoterapeuta e psicologa Gianna Schelotto, che ha scritto SOS Cuori Infranti, Guarire il mal d'amore, Anna Maria Bernardini De Pace, più famosa divorzista o matrimonialista a seconda dei punti di vista, ci diceva Elisabetta Fernandez, sessuologa e sociologa, e c'è Franco La Cecla, antropologo, che va e viene dall'estero, adesso vediamo se riusciamo poi a recuperarlo. Ha detto, diceva Franco, che questa convinzione che l'amore sia eterno ce l'abbiamo solo noi occidentali, e lui diceva che sente in questo odore colpa di chiesa di americani. Non sono proprio così convinta, però siccome ci interessava poi proseguire sulla tua teoria, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Gianna Schelotto, diceva Anna Maria Bernardini De Pace che gli uomini probabilmente sono i primi, insomma, a dare segnali, sono forse quelli che ci credono di meno, non tutti naturalmente, ma tu nel tuo libro, dove affronti le varie storie, parli anche di segnali. Ci vuoi dare qualche modo che ti appizzino le orecchie? Dicono, sì, ma i segnali nascono quasi sempre, sono quasi sempre veicolati dai tradimenti. Cioè il tradimento non è soltanto, come dire, il desiderio di rompere un amore o il sintomo che un amore sia finito. Qualche volta invece è proprio il bisogno di salvaguardare la struttura della coppia, di fare in modo che la coppia duri, e il classico modo di cambiare qualcosa perché nulla cambi. Le tensioni che non si osa affrontare all'interno della coppia le si porta fuori, le si sperimenta con l'amante, e questo dovrebbe lasciare intatti tutti i rapporti che si sono creati nella coppia. E purtroppo questo non sempre funziona e non riesce sempre. La verità vera è che di fronte alla possibilità di un fallimento di un rapporto di coppia c'è una grande resistenza ad ammetterla. Cioè, a me risulta, ma naturalmente perché il mio osservatorio è l'osservatorio della terapia di coppia, cioè da me vengono le coppie che stanno tentando di durare. E qualche volta risulta molto più difficile aiutarle a separarsi che aiutarle a restare insieme, perché si verifica, cioè si sente che non c'è più niente che lega queste due persone, ma l'ansia, la resistenza al cambiamento, la paura di affrontare cose nuove o di lasciare libero l'altro fa sì che si continui a restare insieme anche se si avverte che questo amore è finito. E Elisabetta Fernandez, come sessuologa, no? Prima Anna Maria Bernardini De Pace diceva bisogna pur capire in modo maturo che la passione erotica ha una sua durata, no? nel percorso di una coppia, ma non può essere sempre quella anche dopo anni, bisogna costruire altro. Tu da sessuologa sei d'accordo? È proprio impossibile, cioè a un certo punto c'è una data di scadenza, ma più o meno. C'è proprio un dato scientifico che dimostra che l'amore mediamente dura 12 mesi. Quanti? L'amore, quello fatto di passione, 12 mesi. 12 mesi. Quello fatto di passione, di erotismo, l'amore con la maiuscola. È chiaro che poi dopo bisogna costruire i vari tasselli, e in questo caso la parola costruzione, che è antitetica alla parola costrizione, in questo caso nello specifico, penso sia veramente esplicativa. Bisogna, come diceva la De Pace, costruirselo questo rapporto, trovare dei nuovi stimoli nell'ambito della stessa coppia. Però io, sentendo il discorso della Schelotto, mi è venuto in mente un dato quasi allarmante relativo al discorso dei tradimenti, della sessualità. L'80% degli italiani è soddisfatto sessualmente, ma solo il 40% è felice in coppia. Ecco, questo dato è importante, sia per il discorso che faceva la Schelotto, sia per quello che stavamo aprendo noi sul fatto della sessualità. La sessualità non deve essere rutinaria, deve essere un qualcosa di estremamente semplice nella sua complessità. È la corrispondenza di amore e sensi, è la condivisione dei desideri l'uno dell'altro. Non è vero che la confidenza uccide l'amore, anzi la complicità, la confidenza, la voglia di aprirsi all'altro, secondo me, hanno delle ricadute sulla sessualità estremamente positive. Allora, risentiamo Franco La Cecla, prima che di nuovo ricaschi, l'ha recuperato Valentina Magri ai telefoni. Caro Franco, ti stavano dicendo, non è strano che un uomo faccia di questi discorsi dicendo che l'amore non è eterno, anche se è vero, lo sappiamo tutti, però loro lo sottolineano. Prego. Sono da antropologo questi discorsi, perché devo dire, cioè, se c'è una cosa che insomma che i sociologi, gli antropologi sanno, è che comunque noi siamo un mondo che molto deve all'idea dell'amore romantico, per cui non è che è una cosa così strana, e l'amore romantico è quello che ci costringe a pensare che in qualche modo gli amori devono essere eterni nonostante tutto, perché poi nell'ideologia romantica c'è l'idea di Romeo e Giulietta, dell'amore tragico, di Anna Karenina, e però noi siamo dentro questa costellazione, quindi infatti a me non mi sembra molto strano sentire parlare di quello che si deve fare perché duri un amore. Già siamo nella prospettiva del dovere, vuol dire che c'è qualcosa per cui non si capisce quello che sta accadendo nella società. Cioè, io devo dire, ho un taglio che è quello di leggere non le questioni come questioni di sforzi personali, questioni che hanno a che fare con le costellazioni ideologiche che le società si danno, e la nostra società è una società che si dà un'ideologia dell'amore eterno che poi non è mai in nessun modo a sostenere e che oggi però continua a esserci e che per esempio rende tutto il diritto familiare qualcosa di grottesco e estremamente datato, perché appunto perché invece la società giustamente è cambiata e la gente vive secondo altri modelli, cioè vive con sapendo che nella vita ci sono più amori, che ci sono più matrimoni, che bisogna ricostruire le famiglie allargate. Però questo fatto richiede non la presa di coscienza di quello che la gente deve fare, ma la presa di coscienza di quello che la gente è, del fatto che i rapporti umani sono rapporti umani. Cioè il peso pesantissimo della Chiesa su questo, o il peso pesantissimo dell'ideologia americana, che è quella che comunque l'amore eterno può sposarsi molte volte, che già è una bellissima contraddizione, però appunto diciamo no, noi siamo un po' i figli di questa specie di enorme illusione che ci fa essere più infelici di quello che dovremmo essere. Nel mio libro che si chiama Lasciami, appunto, in realtà io ho cercato di mettere sottotitolo Ignoranza dei congedi, perché appunto perché effettivamente bisognerebbe avere una prospettiva un pochino più da galateo dell'amore, cioè del fatto che insomma qui la gente si accoppa per motivi d'amore, perché appunto perché in qualche modo l'amore viene caricato di qualcosa di cui non bisogna caricarlo, viene caricato di tutta la prospettiva bellissima umana della provvisorietà, cioè però siamo ancora invece in mano a psicanalisti, psicologi che ci dicono che noi dobbiamo fare delle cose, invece che finalmente vivere gli amori per quello che sono, per la bellezza che hanno e per il fatto che ognuno, come dicono gli etiopi, ha diritto nella sua vita a 7 amori almeno. Forse li abbiamo superati, tu li hai superati, Franco? No, assolutamente. Ah, allora sei un uomo che parla, ma tutto sommato il suo amore è quasi eterno. Non ti faccio domande però così intime, Franco, cioè, ma sarei d'accordo che si sta comunque male, no? Quando... Ma certo, ma si sta male perché negli amori, perché se gli amori sono veri, giustamente si sta male, però da questo, in qualche modo, a uccidere un'altra persona, o farla stare male, o a uccidere se stessi. Cioè nel senso che insomma sì, ovviamente gli amori meritano la forza dei sentimenti, però non meritano la forza degli ideali, e questa è la follia. Cioè gli amori sono delle cose umane, se uno l'amore lo mette sull'altare e poi è chiaro che diventa un fondamentalista dell'amore, e questa è la cosa più pericolosa, e non abbiamo ancora imparato a non essere fondamentalisti in amore. Anche se, e qui mi sembra che tra poco dobbiamo fermarci per un'altra pausa, questo è un argomento un pochino a sé stante, poi lo approfondiamo un po', questo dei tantissimi uomini che ammazzano le donne in Italia come all'estero, ma sappiamo quante volte, ho fatto anche uno speciale sul femminicidio, ne parlo spesso e non ci sono più le mezze stagioni per i fatti di cronaca che si susseguono ogni settimana, più volte alla settimana, diciamo è una questione un po' a parte, e non so se è davvero fondamentalismo dell'amore o se è sempre questa famosa simmetria tra i sessi, per cui gli uomini, non accettando ancora la differenza che sono cambiate rispetto al passato i ruoli tra donne e uomini, ne fanno una questione proprio di proprietà, di padronato, come lo vogliamo definire, quindi di un rapporto di forza asimmetrica, per cui un uomo però, non accetta. Però questo qui siamo noi, cioè siamo la nostra società, e non parliamo sempre come cose universali. I sessi sono delle invenzioni culturali, i rapporti tra sessi sono culturali, per cui mi fa piacere se lo dici a me personalmente. In cui ci sono altre culture in cui questo non è così, cioè in cui non ci sono tanti femminicidi, in cui non c'è il senso del possesso. Stai parlando dei paesi del nord Europa o di dove? No, ma ci sono moltissime culture esotiche, gran parte delle culture amazzoniche, delle tribù amazzoniche non c'hanno questa cosa. Neanche i ruoli sessuali? No, c'hanno i ruoli sessuali, ma magari sono al contrario, ma magari non sono, però non sono ruoli di possesso, per esempio. Cioè, e poi soprattutto non c'è questo legame terribile che crea poi la coppia nostra, per cui alla fine tutto ciò è legato invece ai figli, alla figlia, alla parentela. In moltissime culture i figli vengono educati dagli zii, appunto per evitare che appartengano a qualcuno. Posso ascoltare? seguendo la rotta di un passero muto. Io posso allearmi a gente diversa che tu non conosci. Mi posso riempire di amori sfiniti che non ho voluto. Vuoi sola di notte sentirmi morire, non chiederti aiuto. E riprendiamo il nostro tema, sempre Roberta Giordano con voi. Vi ricordo che c'è anche sempre la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi per i vostri commenti anche a posteriori, che leggo sempre uno per uno. Questo dal tema della canzone naturalmente è sempre l'argomento di questa puntata monografica speciale, il guarire dal mal d'amore, le storie che finiscono, e con abbiamo sentito davvero diverse angolazioni. Anna Maria Bernini De Paci, ci eravamo lasciati con Franco La Cecra, che lui dice: gli amori meritano la forza dei sentimenti ma non degli ideali. Si finisce nella nostra cultura con l'avere quasi il fondamentalismo all'interno dei rapporti, delle relazioni tra le persone, che non dovrebbe centrare nulla. Che ne pensi? Tu che sei tutti i giorni a contatto con persone che si vogliono separare, immagino anche con molto dolore, con rancore, poi se vengono da te evidentemente non è neanche consensuale questa separazione, no? No, infatti io sono d'accordo con quello che ha detto, perché in realtà oggi i matrimoni finiscono perché l'amore è diventato una variabile del matrimonio, e soprattutto l'idea di amore inteso come eterno. Una volta non era così, la famiglia era un impegno di vita che si assumevano due persone, poi succedevano delle schifezze. Sono da parte maschile, no? Matrimonio, perché c'erano le mogli che subivano i tradimenti, i mariti che picchiavano, c'erano anche in tanti posti anche le donne che facevano la parte forte. Magari non era proprio così bello dal punto di vista della coppia, però rimaneva comunque questa idea della famiglia. Oggi i matrimoni finiscono invece perché finisce l'amore, appunto, si credeva che l'amore durasse per sempre, ma tante volte il motivo di una separazione, di un divorzio, è proprio quel matrimonio, che non era basato sull'amore ma era basato su aspettative, forse non è, l'amore non era mai cominciato, forse c'era un equivoco quantomeno da una parte sola, magari era anche un gioco crudele, un'illusione, un bisogno. E poi si finisce perché dice: non c'era amore, è finito l'amore, ma magari l'amore non c'era neanche mai stato. Io che faccio, ne ho fatti, li affrontati più di 30.000 nella mia vita, e io stessa mi sono separata e ho divorziato eccetera, devo dirti che oggi con l'esperienza che ho sarei molto più cauta e suggerirei molta più prudenza in tutti nel volersi separare a tutti i costi, perché appunto dall'amore si può passare a un fortissimo rapporto di solidarietà, di amicizia, di condivisione, di confidenza, di tanto, anche con un buonissimo livello sessuale, perché, e c'è la sessuologa che ce lo può confermare, purtroppo oggi molto presto, perché io vedo che succede nelle coppie dopo 6-7 anni, non c'è più il desiderio sessuale. La mancanza del desiderio sessuale viene equivocata con la mancanza di amore, e la coppia si allontana e si rivolge il proprio desiderio sessuale da un'altra parte. Questi sono momenti di grandissimo dolore, non tanto per chi si allontana e cerca da qualche altra parte, ma per chi improvvisamente, neanche pure informato in tempi utili di questi cambiamenti, si trova abbandonato. Sappiamo tutti che il senso di abbandono è un senso dolorosissimo, è difficile uscirne fuori, e bisogna, per riprendersi, imparare a volersi bene. Se tu non ti vuoi bene, nessuno ti può volere bene. Ricordo tra l'altro che Anna Maria Bernini De Paci ha scritto anche un bel libro sul diritto di famiglia, su come sta cambiando l'ultima novità, visto che prima Franco La Cecra un po' citava il diritto di famiglia. Ma Gianna Schelotto, a proposito di questo che diceva Anna Maria Bernini De Paci, sì, è vero che quando finisce l'impeto dell'erotismo, dell'attrazione sessuale eccetera, si può passare ad altro, ma quanti oggi come oggi lo possono accettare? E secondo te, che sei psicoterapeuta e psicologa, ne vedrai tante di coppie, si ha forse, si ha e si sente di più il diritto oggi di riprovare a sentire delle cose che non si provano più con l'attuale partner? Ma il problema è che c'è il grande equivoco dello scambiare l'amore con la passione, cioè è questo che secondo me rende così difficili poi i rapporti tra le persone che immaginano che la grande passione, il grande coinvolgimento dell'innamoramento debbano durare per tutta la vita. E vivendo in una società un po' consumistica, quando queste caratteristiche di esaltazione cadono, cade tutto. In realtà, appunto, come diceva Anna Maria, c'è un problema di progettualità, di affidamento, di reciprocità, che è poi forse il vero senso dell'amore. Cioè l'amore che è fatto di coincidenza di pensieri, di azioni, di emozioni, ma non necessariamente di passione travolgente. Ora, il punto è proprio questo, cioè nel momento in cui ci si rende conto di questo, si condividono dei progetti, si ha voglia di restare insieme, perché avere un compagno accanto, qualcuno con cui qualcuno che ti sei scelto, può rendere il percorso della vita più facile. La cosa che mi premeva a sottolineare prima, rispondendo un po' a Franco Lazzecca, è che in realtà gli psicologi non dicono alla gente che cosa deve fare, ma cercano di aiutarla a capire perché fa certe cose piuttosto che altre. Quindi non c'è mai il senso, come dire, della spinta al dovere, oppure del dire, beh, vi siete sposati, cercate di stare insieme perché è meglio. Ma cercare di aiutare le persone a vivere questa, la complessità della nostra società che si sta trasformando. La coppia passa dall'essere fusionale, dove però affondersi era soprattutto la donna, ad essere relazionale, cioè a ognuno dei due è riconosciuto una pari dignità, pari spazio, pari possibilità di scelta, e questo chiaramente trasforma il tipo di sentimento che legava le due persone. Quindi quel tipo di amore ideale che la Cecla giustamente criticava è proprio una in grande, fortissima trasformazione. Oggi le donne hanno il loro lavoro, le loro scelte, i loro progetti individuali, e qui si fa molta fatica a far coincidere, come dire, l'aspettativa dell'altro, la vecchia idea della donna come compagna sottomessa ad un cambiamento che permette comunque ai due di stare insieme e di continuare a volersi bene, ad amarsi, se possiamo usare ancora questa parola, pur facendo ciascuno la propria strada. È questo che si accetta con più difficoltà. E infatti volevo chiedere a Elisabetta Fernandez, ti sembra, anche dai casi di cronaca che sentiamo molto spesso, anche quando non si arriva a quei livelli, che siano gli uomini, almeno oggi, a essere meno capaci di gestire l'abbandono, la fine di una storia? Purtroppo è un problema che si riscontra anche, viene confermato anche da dei dati scientifici, da delle risonanze magnetiche. L'uomo ha delle aree del cervello che rispondono, per quanto riguarda questo tipo di problema, in maniera molto più aggressiva. E questa è una cosa dovuta dal mio punto di vista. Elisabetta, perdonami, stai facendo qualcosa mentre parli? Sei multitasking? Sentiamo tutti dei rumori strani. No, sono praticamente immobile. Ah. Forse sarà l'auricolare, forse sono una donna immobile. Donna immobile, sono tu hai l'auricolare, ma è un auricolare non immobile. Guarda, ho immobilizzato tutto. Brava, proprio tutto ciò che mi è proprio, lo tengo per la radio. Questo tipo di strutturazione tecnologica. Molto bene. Ce l'ho per la radio, quindi è funzionantissima, almeno sì. Spero. Ecco, adesso sì. Allora andiamo avanti. Quindi dice, quel discorso hanno addirittura delle aree cerebrali che li condizionano in questo modo negativo. Sì, l'uomo, ma chiaramente è un discorso di diversità biologica fra uomo e donna e di risposte cerebrali. E la questione però è questa, secondo me, che anche il discorso culturale va ad inserirsi per modificare il nostro modo di comportarci. La nostra è una cultura dove il predominio del maschio è sempre stato evidente, la donna per affrancarsi da un certo tipo di situazione ha dovuto lottare, ancora sta lottando. Io amo guardare avanti, ringraziando anche chi nel passato ci ha aiutate, certo. Però preferisco guardare avanti e mi auspico un futuro con degli uomini al nostro fianco, né noi dietro né noi davanti, la solito discorso che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, no, è terribile. A fianco, quindi un rapporto paritario, e spero che fra qualche generazione, diciamo così, anche queste differenze di aggressività molto marcatamente biologiche possano essere ancor più stemperate per un futuro in cui uomo e donna fianco a fianco, potranno costruire una società migliore di questa. Franco La Cecla, sei d'accordo? In più ti chiedo, nel tuo libro Lasciami, ignoranza dei congedi, tu hai cercato di formulare anche un galateo degli addì. Dacci qualche suggerimento a chi, insomma, è lì, lì o potrebbe... Allora, intanto il suggerimento è che non credere nella biologia. Che non credi nella biologia? Ti sento un po' male. No, te ne smette nella biologia... Franco, stai facendo un discorso interessante, ma non ti si sente. D'altronde all'estero questo telefonino è un po' capriccioso. Riproviamo un attimo? Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, Franco. Vai. No, appunto, intanto, appunto, appena si parla di biologia, stai immobile. È un sì. campo pericolosissimo, sì. Perché la biologia, appunto, non esiste, esiste condizionamento culturale, anche questa cosa dell'area del cervello, insomma, l'avranno fatto su 3 persone a Los Angeles, ma non l'hanno fatto su tutto il mondo. E poi appunto io devo dire, è sicuramente quello che io so di sicuro è che la passione è qualcosa di universale, cioè la passione amorosa esiste in quasi tutte le culture. Le culture ha una forma di aggressività. E poi l'aggressività probabilmente, devo dire, basterebbe forse un po' di Freud per rendersi conto che comunque insomma ha a che fare con le passioni, quindi ci mancherebbe altro che non ci fosse una forza in queste cose. Come Galateo, l'unica cosa che posso dire è che appunto è che la prima cosa per non farsi male è difendersi da tutti i fondamentalismi, cioè dal fondamentalismo dell'amore, dal fondamentalismo del matrimonio, cioè qua non si è parlato del matrimonio, di quanto il matrimonio come istituzione crei delle gabbie dentro cui la gente scoppia, e questo non è una cosa da poco, perché le istituzioni non sono delle cose così semplici e tranquille, sono delle cose che comunque danno alla gente una scatola dentro cui deve vivere. In Italia le coppie conviventi non hanno gli stessi diritti delle coppie che si sono sposate, questo è gravissimo. E anche quelle dello stesso sesso, quindi sì. Sì, per cui devo dire, insomma, accidenti, parliamo di matrimonio, parliamo del fatto che questa mostruosità che abbiamo inventato un secolo e mezzo fa deve finire in qualche modo, cioè che invece di chiedere i diritti perché tutti si sposino, chiediamo i diritti perché nessuno si sposi, perché non sia un'istituzione la Mars. Questo è fondamentale. E poi devo dire, ovviamente io essendo antropologo non do ricette, come si può dire, individuali. L'unica ricetta è si può soffrire meno, e se l'amore deve essere amore, deve avere ben poco a che fare, secondo me, con le sofferenze. Con la sofferenza. Certo, poi c'è una sofferenza... La sofferenza dell'amore, c'è una sofferenza dei sentimenti, del sentire certo. grandi cose. Non si affeziona se condiviso tanto, no? Però bisogna essere buddisti, cioè il dolore non è mai un segno di maggiore amore. Il dolore è dolore, non bisogna mitizzarlo. Molto spesso noi mescoliamo al matrimonio, ai rapporti d'amore, il fatto che bisogna soffrire, e questo è gravissimo, del nostro retaggio cattolico, del fatto che appunto che siamo incapaci di vivere la vita per quello che è, ma la dobbiamo vivere per quello che dovrebbe essere. Tanto basta così, così scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà. Sì, ma basta così, così, fermiamoci qui. Quanti punti di vista, quante suggestioni, quante riflessioni in questa puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, con diversi ospiti, quindi anche diverse angolazioni, formazioni e convincimenti. Abbiamo sentito prima Franco La Cecla. Gianna Schelotto, tu sei d'accordo, come lui dice, che fra le cose da abolire ci sarebbe, anziché difendere il diritto di tutti a sposarsi, quindi naturalmente anche delle coppie omosessuali, il diritto di far fuori, dice, questa mostruosità, che secondo lui è una scatola in cui le persone sono forzate a stare. Secondo te è un po' come, forse un capitoletto anche del tuo libro, SS Cuori Infranti, una tomba dell'amore, il matrimonio, insomma. Questa è una cosa, voglio dire, che si dice da tanto da tanto tempo, un luogo comune. Il matrimonio è la tomba dell'amore, perché appunto però era un'indicazione di massima, cioè il matrimonio dura anche se non dura più l'amore, quindi era una sorta di indicazione, questa sì, mostruosa. Certo, io sono un po' troppo vecchia per condividere fino in fondo la mostruosità Franco il matrimonio come la intende Franco la Cecla, però certamente il diritto a non soffrire credo che sia una cosa che vada in tutti i modi garantita ai nostri giorni, e quindi questa sofferenza che nasce dai cuori infranti è certamente una cosa che ha a che fare con l'incapacità, ma con tutto quello che dal punto di vista psicologico scatena un abbandono. La verità vera è che un abbandono mette in crisi noi stessi come identità, ci fa perdere l'idea di noi stessi, ci fa perdere l'autostima, e quindi quella grande massa di sofferenza che muove la rottura di un amore è legata a questi aspetti, non alla necessità di rimanere insieme a tutti i costi. Ecco, questo credo che sia fondamentale. Quanto anch'io sono d'accordo sui distacchi, io ho scritto un libro su distacchi ed altri addii, nei quali appunto mi soffermavo sul fatto che il distacco sia anche una grande opportunità, un cambiamento, e come sia difficile ogni volta che ci si trova di fronte ad un distacco rielaborare se stessi e convincersi che una perdita comporta sempre un acquisto, un'opportunità nuova e quindi un'apertura sul mondo nuovo. E questo è il vedere positivo. Adesso chiedo man mano agli ospiti di essere sintetici, perché stiamo avvicinando verso la fine. Elisabetta Fernandez, ecco, questa cosa per esempio dell'autostima che citava Gianna Schelotto, no? Perché c'è anche il rischio quando si viene lasciati di sgregarsi un po', di sgretolarsi. Sì, e poi si corre il rischio di degenerare in quella sorta di anoressia sentimentale, no? Per cui ci si nega proprio all'amore. Non mi innamorerò mai più. E non mi innamorerò mai più, i sensi di colpa che aumentano, il mettersi continuamente in modo esasperato in discussione, tutte cose che fanno molto male, perché non so se io abbia dato l'idea di voler proporre un manuale di doveri in amore dai discorsi dell'antropologo, però no, in realtà la mia intenzione non era sicuramente quella, anche perché anch'io sono dell'idea che l'amore sia bello finché dura. E comunque al di là dei doveri abbiamo sempre dei riferimenti a dei valori, ecco qual è il mio discorso. E poi mi sia consentito replicare sulla questione del genetico e del culturale. Io ho sostenuto, e tu ben lo sai Roberta, più volte abbiamo affrontato queste tematiche, il discorso della genetica, di quell'interferenza della genetica che a me come sociologo innervosisce, però della quale purtroppo siamo costretti come studiosi a tenere conto anche per ribadire e andare contro certe asserzioni. Sì, probabilmente a volte il rischio, parlando di biologia, è quasi di giustificare certi atteggiamenti, magari molti uomini si dicono io sono per natura più aggressivo e quindi per forza poi sfocia nella violenza, l'abbandono. Ecco, invece è proprio questo il concetto da ribaltare, che la cultura può intervenire proprio sulla genetica, e anche nell'ipotesi in cui geneticamente si sia fatto in un certo modo, la cultura, l'ambiente, le relazioni possono modificarci e spero renderci migliori. E volevo chiederti, Franco La Cecla, prima di sentire Anna Maria Benedetti De Paci, siamo sintetici, si può quindi educare ai sentimenti? Come si può fare per cambiare un po' anche da questo punto di vista, seguendo La prima cosa da fare è appunto è rendersi conto del fatto che non si possono sostituire i genitori, cioè che quello che in genere accade è che uno cerca nel partner la stessa datità, no? Che uno ha nel padre o nella madre, cioè i genitori sono dati, non è che uno si riescenti, ci troviamo con i genitori, ovviamente loro sono questo rapporto fondamentale, no? Certo. Però non è possibile sostituire un partner a questi rapporti fondamentali. Noi non siamo arrivati a questo punto, perché nella nostra ideologia dell'amore c'è invece fondamentalmente il fatto che tu devi scegliere una persona e che quella persona deve diventarti familiare come se fosse tuo padre o tua madre, e lì c'è un equivoco enorme. Cioè, o smantelliamo questo equivoco, oppure tutto ciò che ne consegue, cioè la violenza, la tragicità dell'abbandono, non sparirà mai. È un po' questo, cioè nella scelta del partner c'è la scelta, è la cosa che la gente dimentica, non c'è una datità. Questo è chiaro. Anna Maria Benedetti De Paci, mentre ci avviamo alla chiusura, si diventa facilmente amici, visto che tu sei in mezzo a tutti questi conflitti? Poi si diventa. Può diventare amici capendo tante cose, certo non possono essere viste tutte in modo così pessimista e spesso cinico come le vede il nostro antropologo, si vede che devo studiare un po' di antropologia per togliermi un po' di illusioni che ho evidentemente. Io vedo tantissime coppie, ho il piacere di poter dire che su 100 coppie all'anno di cui curo separazione e divorzio, 90 vengono alla fine risolte in modo consensuale. Ah, beh, un bel risultato. Questo vuol dire che si capiscono le motivazioni, si chiariscono, c'è la lealtà, c'è un'impostazione per il dopo, c'è soprattutto l'alleanza genitoriale, perché non dobbiamo dimenticare che la separazione è importante perché le persone non soffrano, perché le persone non subiscano angherie e infelicità all'interno del matrimonio. Il codice ci dice che la separazione è possibile chiederla quando la comunione di vita non è più proseguibile perché è intollerabile. Allora bisogna dare un significato a questa intollerabilità, bisogna capire, certo, se uno dei due si è innamorato di un'altra persona e fa una doppia vita, se uno dei due è un violento, se uno dei due è totalmente incapace anche di un gesto di affetto perché freddissimo, rigido, per qualsiasi motivo, è chiaro che è intollerabile. Però ci sono tante situazioni in cui è finito l'amore passione e quindi l'amore erotico, probabilmente non ci sono più illusioni di innamoramenti, non c'è neanche questa grande litigiosità, non ci sono queste tante cose. Finiamo in amicizia. Separano, si può continuare con amicizia, solidarietà, volendosi bene anche con i figli e per i figli. La stessa cosa si può fare da separati. Moltissimi continuano a fare da sposati, cioè hanno trasformato l'amore bene in qualche cosa di meno potente, ma forse più solido. Insomma, naturalmente l'argomento non si esaurisce qui, ma ringrazio intanto Gianna Schelotto, Anna Maria Veradini De Pace, Elisabetta Fernandez, Franco La Cecla e da Roberta Giordano, sereni orizzonti e possibilmente amori a tutti.